passeggio con il mio gatto e mi tengo a un lampione e canto. Oh, ah, che bella questa vita, anche se il giornale dà notizie disastrose, anche se tu lo sai, quando tu non mi tieni più, quando tu non mi tieni, io mi lascio giù. È chiaro che sorrido, ma dentro ho un vulcano che scoppia così forte da farmi stare giù, quando tu non mi tieni più, quando tu non mi tieni, io mi lascio giù. L'orologio, l'orologio, la stazione è qua. Primavera, primavera, vai così. Oh, ah, che bella questa vita, anche se il giornale dà notizie disastrose, anche se tu lo sai, quando tu non mi tieni più, quando tu